Il meraviglioso anello. C'era una volta un re che aveva due figli. Il figlio maggiore, il principe Edoardo, era saggio e attento alle cose, mentre il più giovane, principe Clifford, era un grande spendaccione. Ah, Rubus, portami i gioielli. Vostra Altezza, ho appositamente creato questi anelli per voi. Sono squisiti. Ecco qui. Signore, grazie. Altezza, avremo bisogno di altre 100 monete d'oro. Oh, dammi un secondo. Edward, puoi prestarmi 100 monete d'oro? Ma padre ci ha appena regalato 1000 monete d'oro. Le ho spese? Di già? Non è nemmeno passata un'ora, Clifford. Fratello, ho qualcuno che aspetta. Dovresti vedere gli anelli e i braccialetti che ha modellato. Dovresti prenderne qualcuno per te. Clifford, sei impossibile. Prestami i soldi, per favore, fratello. Siamo principi. Come potremmo mai rimanere senza oro? Il principe Edoardo prestò al principe Clifford le 100 monete d'oro, ma era preoccupato che con l'abitudine di spendere così, il suo fratello minore avrebbe presto esaurito tutto l'oro del palazzo. Così decise di parlarne con il padre. Padre, in questo modo Clifford spenderà tutto l'oro del palazzo. Hai ragione. Non hai parlato con lui? Tutto quello che dice è che siamo principi. Non resteremo mai senza oro. Ah, quindi parlare non aiuta. Di al principe Clifford che voglio vederlo immediatamente. Il principe Clifford venne convocato e il re gli parlò. Tu conosci solo il potere dell'oro. E ora che tu capisca quanto questo ti possa rendere anche debole. Non capisco, padre. Qui ci sono 1000 monete d'oro. Se le farai durare un mese, va bene. Ma se le spenderai prima, dovrai lasciare il palazzo e tornare solo quando avrai imparato quanto debole ti può rendere l'oro. E delle cose che hanno molto più valore di esso. Come desideri, padre. Quindi il re diede al principe Clifford 1000 monete d'oro, che, naturalmente, il principe spendaccione spese in pochi giorni. Quindi, come era stato detto, dovette lasciare il palazzo, con niente più di 4 monete d'oro che il principe Edoardo gli diede. Padre, non c'è un altro modo? Gli farà bene. Clifford ha un buon cuore. Il suo buon cuore lo proteggerà e lo farà tornare da noi più saggio. Il principe Clifford raggiunse la periferia del regno. Lì improvvisamente sentì un suono. Ehi, non colpire il povero animale. Ha bevuto tutto il latte della mia bottiglia. Ora cosa berrò? Questo gatto è più un problema che un aiuto. Comprerò il gatto da te. Quanto? Una moneta d'oro, e non di meno. Ecco qui. Ciao, amico. Sei libero adesso. Nessuno ti colpirà. Meo, voglio venire con te. Va bene, vieni, ma non ho niente da darti. Hai un buon cuore, e questo è più che sufficiente, mio. Un po' più avanti, il principe arrivò in un campo dove vide un contadino molto arrabbiato. Sei una creatura orribile. Qual è il problema? Non colpire la povera creatura. Gli uccelli hanno beccato tutta la mia frutta. Avrebbe dovuto scacciarli via. Ma guarda la sua gamba. Comprerò il cane da te. Quanto? Una moneta d'oro, e non di meno. Ecco qui. Ora sei libero, amico. Io verrò con te. Va bene, vieni. Ma non ho niente da darti. Hai un buon cuore e questo mi basta. Vieni. Un po' più avanti, il principe incontrò un uomo che portava uno strano pacco coperto da un panno rosso. Mentre il principe passava, sentì chiamare. Qualcuno mi liberi? Ehi! Cos'hai lì dentro? Secondo te? Voglio vedere di cosa si tratta. Libero questo pappagallo. Dovrebbe volare nel cielo, non essere ingabbiato in questo modo. Se vuoi che liberi il pappagallo, ti costerà una moneta d'oro. Ecco qui. Adesso libera la povera creatura. Ora puoi volare dove vuoi. Voglio venire con te. Va bene, ma non ho niente da darti. Hai un buon cuore e questo è abbastanza. Vieni. Il principe continuò a camminare con i suoi nuovi amici. Un po' più avanti incontrò un incantatore di serpenti. Ti piacerebbe vedere il mio spettacolo? Non posso più farlo. Qualcuno mi salvi. Ehi, amico mio, è crudele tenere un serpente in un cesto come questo. Liberalo. Se vuoi che io liberi il serpente, ti costerà non meno di una moneta d'oro. Ecco. Ora sei libero di andare, amico. Resterò con te e voglio ripagarti per la tua gentilezza. Non è necessario, amico. No, vieni con me dalla mia famiglia e quando mio padre ti chiederà cosa vuoi, chiedi dell'anello che indossa. Il principe fu sorpreso dalla strana cosa che il serpente gli aveva chiesto di fare, ma decise di fare come diceva il serpente. Insieme risalirono la collina fino a un covo. Il serpente entrò per parlare con suo padre e presto fu convocato il principe Clifford. Hai salvato la vita di mio figlio. Cosa posso fare per te? Ho semplicemente fatto quello che ogni umano dovrebbe fare. Non voglio niente in cambio. Grazie. Hai un buon cuore. Sarà un onore per me ascoltare la tua richiesta. Per favore, dimmi cosa vuoi. In tal caso, posso avere l'anello che indossi? Non mi sarei mai separato dall'anello, ma una promessa è una promessa. Prendi questo. Stai attento alla strega. Lo insegue da anni. Anche se il principe aveva fatto come gli era stato detto, non riusciva a capire per quale motivo avesse dovuto chiedere un anello quando c'era così tanto oro che avrebbe potuto ottenere. Ma non disse nulla. Il principe aprì la borsa e ne tirò fuori un pezzo di pane. Ma quando pensò che anche gli animali potessero essere affamati, diede loro il pezzo di pane. Sapete cosa? Non ho fame. Perché non lo dividete fra di voi? Perché non chiedi all'anello? È un anello, non uno chef che cucinerà. Adesso chiedi. Cibo? Tutto quello che vuoi. Per ora chiedi del cibo. Voglio i dolci più deliziosi. Torte calde per me e fragole con le panne per il gatto e frutta e noci per il pappagallo e biscotti per il cane. Per te? Ho già mangiato. Grazie. Quindi voglio... Il cibo è già qui. È delizioso. Ora fai come me. Tieni questa bottiglia di latticello con te e potrai chiedere all'anello qualsiasi cosa. Grazie mille, amico. Il principe e i suoi amici animali vagarono lontani. Con l'anello meraviglioso con loro, non dovevano preoccuparsi di nulla. L'anello dava loro da mangiare, una casa, coperte calde per le notti fredde, tutto. Vagando così, raggiunsero un nuovo regno. Uno strano annuncio fu fatto quando entrarono nei suoi cancelli. Il re sfida chiunque a costruire un palazzo d'oro in mezzo al mare in una notte. Chi lo farà sposerà la principessa e possiederà metà del regno. Che strano annuncio. Questo deve essere un tipo di incantesimo malvagio sul re, altrimenti perché avrebbe dovuto lanciare una sfida così impossibile? È davvero un incantesimo per trovare quell'anello. Con il potere dell'anello, questa sfida non era niente per il principe. Andò a corte e disse al re che avrebbe costruito il palazzo. sarò in grado di vincere la sfida in pochissimo tempo. Sei sicuro? Sì, Vostra Altezza. Il principe venne portato al mare, dove dormì tranquillamente per tutta la notte. Tutti erano preoccupati per lui, ma non appena l'alba arrivò, il principe si svegliò, pregò il suo anello e... un bel palazzo d'oro si alzò in mezzo al mare. La guardia, che era in realtà la strega, vide tutto. Quell'anello! Lo sapevo! Nessuno può impedirmi di tenerlo ora! Il principe e la principessa si sposarono felicemente e iniziarono a vivere nel palazzo d'oro. La strega pianificò tutto per ottenere l'anello. Questa è la mia occasione! La strega prese la forma di una vecchia e fece finta di essersi persa in mare. La gentile principessa la lasciò entrare nel palazzo. Vostra Altezza, che bella casa che hai! Ma come mai in un palazzo così grande non ci sono servitori? Ah, non abbiamo bisogno di servitori. Il principe ha un anello magico che fa tutto per noi. Voglio vedere l'anello! Presto! Voglio dire, se non ti dispiace... Mio marito tiene sempre l'anello con sé. Dovrai aspettare che lui torni per vederlo. Sarà difficile rubare l'anello al principe. Devo tentare qualcosa di diverso. Oh no! Dovresti tenere l'anello con te. Perché? Che cosa succede se si perde nel mare? Non sarebbe più al sicuro nel palazzo con te? Hai ragione. Gli parlerò quando tornerà. Quella notte, la principessa chiese al principe di tenere l'anello con sé quando lui andava in mare. Il principe accettò prontamente. Il mattino dopo, il principe uscì in mare senza l'anello. La strega lo vide andare e ora che la principessa era sola, tornò alla sua vera forma e strappò l'anello dalla principessa. Finalmente! Ti ho cercato per tutta la vita! Ho lanciato l'incantesimo su questo regno per trovarti! Finalmente sei mio! Quando tuo marito tornerà a casa, non saprà mai cos'è successo qui! Gli animali dissero al principe tutto quello che era successo non appena lui tornò dal mare. So dove ho portato la principessa! Presto, portami là! Non è sicuro per te andarci. Non dimenticare che la strega ha l'anello. Il cane ha ragione! Non si può sapere cosa farà con l'anello! Miau, ti porteremo l'anello! Il pappagallo li portò dove la strega aveva imprigionato la principessa. Subito, il serpente strisciò verso la principessa. Assicurati di chiedere il formaggio per cena di oggi e lasciane un po' vicino alle pareti della grotta. La principessa chiese del formaggio per cena e ne lasciò segretamente un po' vicino alle pareti della grotta. Di notte, quando la principessa e la strega dormivano, i topi vennero a mangiare il formaggio. Il gatto stava aspettando. Afferrò un topo e infilò la coda nel naso della strega. La strega starnutì e l'anello uscì. Il pappagallo afferrò e volò via. Il cane liberò la principessa e il serpente si assicurò che la strega non potesse attaccarli. Presto, tutti tornarono dal principe. Per favore, lascia che tutto il male della strega e il suo incantesimo su questo regno svaniscano per sempre. Ora capisco cosa intendeva mio padre. Cosa? Avevo tutto l'oro e la ricchezza del mondo, ma non erano abbastanza per tenerti lontano dal male. I miei amici e non i miei soldi mi hanno aiutato. Durante tutta la mia vita, solo perché sono un principe, ho dato importanza alle cose che il denaro può comprare e non alle persone che mi amavano. Nessuna somma di denaro sarà mai sufficiente per garantire la felicità, ma l'amore di un solo amico è sufficiente per illuminare le nostre vite per sempre. E io ho 5 di voi, mio fratello e mio padre. Non ho bisogno di più soldi. Prendi questo e restituiscilo a tuo padre. Appartiene a lui. E alla fine il principe Clifford tornò a casa come un uomo più saggio. Alla fine aveva appreso il valore delle cose giuste nella vita e rimase con suo padre e suo fratello, i suoi amici animali e l'amore della sua vita, la principessa, per sempre felici e contenti.